Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9, come sempre in onda ogni giovedì alle 21. Un saluto da Annalisa, qui dallo studio di Bruxelles, questa sera Michele in regia. Buonasera Michele, grazie per il supporto. E in collegamento Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Annalisa, buonasera amici radioascoltatori e ovviamente buonasera anche a Michele. Dunque Alessandra, ancora una volta un giro di boa al passo con l'attualità. Questa sera ci occupiamo di un tema, Alessandra, che abbiamo già trattato in passato qui a Giro di Boa. Sì, esatto, come spesso succede a Giro di Boa abbiamo dei filoni che ritornano costantemente. Questa sera discuteremo di Iran. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha pubblicato recentemente un rapporto sull'Iran in cui si dice che l'Iran sta lavorando alla bomba atomica in una prospettiva militare. Molti paesi che hanno commentato il rapporto preoccupati per la stabilità nella regione. Israele, dal canto suo, riflette a voce alta sulla possibilità di un attacco preventivo contro il regime sciita. Dunque questa sera cercheremo di capire quali sono i reali pericoli di una nuova guerra nell'area, come si redisegnerebbe il Medio Oriente se l'Iran possedesse gli ordigni nucleari. Ne discutiamo questa sera con un ospite che è già in collegamento con noi. Annalisa, ce lo vuoi presentare? Sì, il nostro ospite questa sera, scusate, è Antonello Sacchetti. Buonasera Antonello. Buonasera. Ci senti? Buonasera. Antonello Sacchetti, giornalista, scrittore, web content manager, lavora dal 2004 nell'area comunicazione dell'agenzia Sviluppo Lazio SPA. Sempre dal 2004 dirige la rivista online Il Cassetto, l'informazione che rimane, da lui fondata. Grande conoscitore dell'Iran, ha scritto tre libri pubblicati da Infinito Edizioni: I ragazzi di Teheran, Misteri persiani, Iran, la resa dei conti. Antonello, dunque, al di là delle dichiarazioni dell'ambasciatore iraniano in Italia, il quale ha dichiarato Israele è troppo debole, non ci attaccherà mai, secondo te quali sono le probabilità che Israele possa sferrare un attacco mirato ai siti nucleari iraniani nei prossimi mesi? Ma molto sinceramente io sono piuttosto scettico su questa prospettiva, partendo dalla storia. In passato Israele ha compiuto due attacchi a paesi mediorientali che stavano lavorando appunto ad ordigni nucleari. Uno risale al 1981, quando colpì allora l'Iraq di Saddam Hussein, che stava lavorando nella base di Osirak, e l'ultimo è stato 3 anni fa in Siria. In nessuno dei due casi Israele ha mai minacciato prima. O ne ha parlato, addirittura in questo caso dell'Iran sono anni che si parla di un eventuale attacco preventivo di tutta questa questione. Lo ha semplicemente fatto, era nelle condizioni di farlo e lo ha fatto. Tra l'altro, le ironie della storia: nel 1981, cioè in piena guerra tra Iran e Iraq, l'Iran, che era già Repubblica Islamica dell'Iran, la rivoluzione era già avvenuta, collaborò con Israele per l'attacco agli impianti nucleari di Saddam Hussein, perché alla fine il nemico del mio nemico è il mio amico. Quindi insomma, si scambiarono informazioni e alla fine quello che avvenne fece comodo a tutti e due. Io farei però una piccola premessa, ecco, nel cappello introduttivo quando si parlava del rapporto della IEA. In realtà il rapporto della IEA, a rileggerlo con attenzione, queste 14 paginette pubblicate oramai sono un paio di settimane, non dice granché di nuovo rispetto agli altri rapporti pubblicati negli ultimi anni. Cioè, è stato più il clamore suscitato dal prima, cioè dalle anticipazioni uscite nella stampa di tutto il mondo, che effettivamente il contenuto. Nel contenuto si dice in sostanza che la IEA non è in grado di affermare con certezza che effettivamente il lavoro che l'Iran sta svolgendo sia un lavoro al 100% per il civile. Ora, da qui a dire che stia preparando la bomba atomica ce ne passa, perché insomma la differenza è anche piuttosto grande, partendo anche da un presupposto. La IEA, questo oramai è storia, ha certificato che l'Iran fino al 2003 stesse lavorando appunto a un progetto militare, come dire, coordinato, organico. Dopo nel 2003, quando appunto quella notizia è trapelata al di fuori dell'Iran ed è cominciato un dibattito, quello che di fatto è ancora in corso, appunto sulla questione nucleare iraniana, non ci sono prove che questo sia un programma nucleare militare organizzato. Tuttavia non si possono, quindi, eliminare a priori, negare a priori, che ci possano essere delle attività che siano ancora in corso e che possano queste essere di carattere militare. Io direi che tutt'altro si inquadra in una situazione, come dire, geopolitica molto complessa e che sicuramente nell'ultimo anno ha visto molti attori cambiare in Medio Oriente. Quindi forse probabilmente lo scenario, appunto nella domanda tu mi dicevi quali, come cambierebbe lo scenario del Medio Oriente dopo una guerra, probabilmente in realtà lo scenario è già cambiato prima, quello che è avvenuto la primavera araba, la cosiddetta primavera araba negli ultimi 12 mesi, e probabilmente l'attuale situazione è frutto anche di questi mutati atteggiamenti. Antonello, nello scacchiere medio orientale l'Iran non ha molti, molti amici, fra i suoi più acerrimi nemici ritroviamo ovviamente Israele, che abbiamo già citato, ma anche l'Arabia Saudita. Tu hai appena detto che il nemico del mio nemico è mio amico. Sarebbe possibile un patto tra l'Iran e tra l'Arabia Saudita ed Israele per attaccare l'Iran, o comunque per sviluppare una strategia contro l'Iran? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro questo è già avvenuto. Non solo, voglio dire, tra l'Arabia Saudita e Israele, ma tra l'Arabia Saudita e l'Iraq, che comunque non sono mai stati negli anni passati grandi amici. Ma dirò di più, purtroppo ecco, nella pubblicistica italiana non ci sono, sono molte traduzioni su argomenti di questo tipo, ma c'è un libro molto interessante di Trita Parsi, che è appunto uno studioso americano di origine iraniana, che si chiama The Treacherous Alliance, ed è tutta una riflessione sul rapporto tra Iran e Israele, che al di là di quello che si può credere, è un rapporto che molto spesso ha vissuto momenti anche di grande sintonia. E può sembrare assurdo, però intanto da un punto di vista culturale, qualcosa che probabilmente si sa poco in Italia, ma l'Iran è un paese che ha antiche tradizioni ebraiche. Tuttora vive in Iran la più grande comunità ebraica in Medio Oriente, a parte Israele. Non solo, ma molti personaggi della vita politica, anche di israeliana, come l'ex presidente Ketzav, che appunto fu rimosso con un impeachment, non solo sono di origine iraniana, ma addirittura hanno vissuto in Iran magari fino all'età dell'adolescenza. Persino, ecco, questo è un dettaglio, una curiosità che può interessare, ma i giorni della settimana del calendario persiano derivano tutti dall'ebraico, cioè dallo Shabbat ebraico, quindi c'è una commistione veramente di tanti fattori culturali che in realtà rendono questi due paesi molto meno lontani di quanto non si possa credere. Ma negli ultimi 30 anni, appunto, il carattere di questi due paesi, entrambi non arabi, in un contesto a forte prevalenza araba e musulmana e musulmana sunnita, ha fatto sì che fossero due paesi diversi dagli altri, ed entrambi in fondo con delle ambizioni di potenza medio-grande nell'area. Lo era prima addirittura con il periodo dello Shah, lo è stato poi in fondo dopo, nel senso che anche con tante altre vicende i due paesi hanno continuato ad avere atteggiamenti magari in modo segreto, ma comunque di collaborazione. Poi le cose sono cambiate, ma sono cambiate anche perché è cambiato poi il contesto internazionale. Con la fine della guerra fredda ci sono state altri focolai di tensione, ci sono state altre minacce, ci sono stati anche altri scenari, e direi anche altri grandi temi che poi devono tenere alta la tensione in certi momenti. L'Arabia Saudita, mi voglio ricordare che molto spesso viene citato l'Iran appunto come il grande nemico, come il grande avversario dell'Occidente, la grande antitesi di tutti i valori che dovrebbe rappresentare l'Occidente, cioè appunto democrazia parlamentare, la rappresentanza, i diritti umani, eccetera, eccetera. Fare questo e prendere come specchio invece l'Arabia Saudita è un grosso sforzo, perché se c'è un paese che rappresenta veramente l'esatto contrario di tutte le cose che ho appena citato, questo non è l'Iran ma è l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un paese che non concepisce ancora come un'idea di democrazia parlamentare. L'Iran, in tutte le sue contraddizioni, in tutta la sua storia anche molto tormentata, voglio ricordare che è il primo paese del Medio Oriente che ha avuto una costituzione, una rivoluzione costituzionale del 1906, è stato il primo paese nell'area appunto a dare il voto alle donne, tuttora ha un sistema che, per quanto non possa essere paragonato alle nostre democrazie, vive tuttavia una sua dialettica interna che, come abbiamo visto appunto 3 anni fa con le elezioni presidenziali, conosce anche fasi di grande confusione, di grande alternanza. Da un punto di vista geopolitico l'Iran ha sicuramente dei nemici molto forti, tra questi l'Arabia Saudita, Israele e alcuni stati ereditari, come dire, delle monarchie dei paesi appunto arabi del Golfo Persico, ma va detto che negli ultimi anni ha anche saputo conquistarsi delle amicizie molto forti, ma tra tutte l'Iraq. Cioè il grande paradosso della storia degli ultimi 10 anni è che ci sono state 2 guerre che sono state appunto fatte dagli Stati Uniti, dall'Occidente in Afghanistan e in Iraq, ma ad essere eliminati sono stati 2 rivali storici dell'Iran, cioè i talebani in Afghanistan e Saddam Hussein in Iraq. E questo di fatto ha fatto, come dire, questo usando le parole di Sun Tzu, grande è colui che vince senza combattere, nel senso che nessuna di queste 2 crisi è stata mai sollevata dall'Iran. Eppure se c'è un paese che nell'area si è riscoperto più forte in seguito a queste guerre è proprio l'Iran. Ma allora, per ritornare alla mia domanda, tu credi che Arabia Saudita e Israele potranno allearsi contro l'Iran? Perché giustamente tu citavi l'Arabia Saudita come paese che è agli antipodi rispetto alla nostra alla nostra idea di democrazia e di Stato moderno. Dall'altro lato sappiamo benissimo che l'Arabia Saudita è un paese profondamente chiuso e che ha una relazione molto particolare con Israele, nel senso che è proprio una relazione di nemici. Però a questo punto, se il nemico del mio nemico è mio amico, soprattutto considerando che gli aerei israeliani, se vorranno partire da Israele, dovranno sorvolare o l'Arabia Saudita o la Turchia per arrivare in Iran e bombardare. Certo. E questo sarebbe, pensiamoci soltanto un attimo, sarebbe uno shock per le opinioni pubbliche dei paesi arabi e in generale di tutti i paesi musulmani dell'area fortissimo. Nel senso che qualora questo avvenisse non farebbe altro che portare simpatia all'Iran nell'opinione pubblica di quei paesi. Faccio 2 considerazioni. L'Arabia Saudita, oltre a tutto quello che tu dicevi, deve anche vivere con una tensione interna, perché c'è una minoranza sciita in Arabia Saudita che è storicamente oppressa e che proprio oggi ha avuto un'altra fase così di risveglio, di tumulti e di proteste, e ci sono stati dei morti. Quindi in tutto questo, quando viene qualcosa del genere, l'Iran subito si schiera con i manifestanti e da parte loro le autorità saudite condannano queste ingerenze, queste prese di posizione come ingerenze negli affari interni. Dall'altra è un po' una situazione appunto molto complessa, anche perché l'attuale scenario presenta anche delle situazioni anche abbastanza nuove, inedite. Lunedì scorso c'è stato un voto della Commissione ONU sui diritti umani con una risoluzione che ha condannato l'Iran per le violazioni della situazione generale dei diritti umani all'interno. Ora, al di là di questo fatto, è interessante notare come abbiano votato i paesi medio orientali. Cioè, mentre Libia e Tunisia hanno votato sì a questa risoluzione, quindi in chiave chiaramente anti-iraniana, l'Egitto si è astenuto, la Turchia non ha partecipato al voto. Cioè, c'è una forte attenzione in questo momento, per esempio mi riferisco soprattutto all'Egitto, con una fase di turbolenza, ancora di situazione molto molto fluida e molto critica, a non turbare gli animi della popolazione, gli animi dell'opinione pubblica. Cioè, una presa di posizione, ma addirittura una guerra che venisse sostenuta anche da un punto di vista soltanto meramente tattico, strategico, anche senza fornire armi, ma magari dando il diritto di sorvolo, un'operazione del genere, sarebbe sicuramente un elemento molto molto critico. L'altra notizia di questi ultimissimi giorni è che ANP e Hamas pare si stiano mettendo d'accordo per arrivare a delle libere elezioni nell'arco di un anno. Sono tanti elementi che ci dicono qual è poi alla fine il fulcro di tutto quanto, cioè c'è sempre una questione palestinese non risolta, e tutto questo rischia sempre di passare in secondo piano finché si parla appunto di una prospettiva così terribile, così apocalittica, ma quella di un conflitto nucleare. Io parlo sempre dello stesso punto di vista, in tutta questa situazione c'è qualcosa di terribilmente strano. Quando si parla appunto di impedire la bomba atomica dell'Iran, si parla appunto di un paese che la bomba atomica sicuramente non ce l'ha, non sappiamo se sta lavorando per averla, ma sarebbe l'unico caso in cui un paese che non ha nemmeno ancora una bomba atomica sia una minaccia per uno che ne ha 300, parlo di Israele ovviamente. Antonello, un paese che non aderisce al trattato di non proliferazione. Antonello, ti vorrei chiedere come secondo te potrebbero cambiare gli scenari in Medio Oriente, appunto qualora l'Iran avesse veramente ordigni nucleari. Sicuramente immagino questo potrebbe scatenare una corsa agli armamenti nucleari nella regione, e in secondo luogo sicuramente il rango dell'Iran come potenza nella regione ne uscirebbe sicuramente accresciuto. Tu come vedi questi scenari in questo caso? Si arriverebbe una cristallizzazione de facto, cioè nel senso che l'Iran secondo me non vuole arrivare tanto alla bomba, vuole arrivare a un passo dall'avere la bomba per poter dire appunto noi siamo allo stesso tavolo e adesso mettiamoci d'accordo. La corsa agli armamenti, sì, io faccio sempre presente che il Pakistan la bomba atomica ce l'ha l'India, ce l'ha il Kazakistan, ce l'ha la Russia, ce l'ha Israele, quindi di fatto nella zona, questo passatemi la battuta, ma se io fossi un iraniano, cioè fossi un politico iraniano, probabilmente mi preoccuperei se il mio paese non pensasse affatto a dotarsi di una bomba atomica piuttosto che dice se no io non la voglio, cioè nel senso che al di là delle dichiarazioni di facciata è chiaro che c'è in gioco un equilibrio che molto spesso si basa anche su questo, cioè una cristallizzazione delle forze in campo che può avvenire quando alla fine le forze in campo sono uguali. Io sinceramente non credo più che siamo nella stessa situazione geopolitica di 10 anni fa. La notizia di questi giorni è che la Russia ha detto di no, cioè ha detto di no a nuove sanzioni, ha detto meno che mai no a un eventuale attacco militare all'Iran, ora non perché ci sia tutto questo amore incondizionato per la Persia e per la Repubblica Islamica, ma semplicemente perché si sta ridelineando una sorta di nuova guerra fredda in cui la Russia non è più disposta a guardare che l'America si comporti in quello che una volta era diciamo uno scenario, un territorio di caccia russo, o comunque insomma non era un'area di influenza aperta agli americani in modo così libero e incontrastato, anche perché appunto passati 10 anni, insomma l'America deve fare anche i conti con due campagne militari molto contraddittorie, portate avanti anche lì inizialmente con delle motivazioni che poi non si sono rivelate esatte, delle accuse di armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, insomma voglio dire la situazione non è così netta come sembra, e anche tutta questa diatriba sul nucleare iraniano alla fine ecco ne stiamo parlando in modo chiaro, aperto, da quasi 10 anni, sono 7-8 anni oramai che se ne parla, e secondo me probabilmente se ne parlerà ancora molto, ma non sarà in termini di opzioni militari, io francamente a questo credo davvero poco. Antonello, abbiamo parlato della situazione nella regione, ma qual è la situazione interna alla Repubblica Islamica? Chi a livello politico è favorevole al programma nucleare e chi è contro? La guida suprema è della stessa opinione del Presidente oppure ci sono degli screzi a questo riguardo? Va fatta una distinzione, secondo la Costituzione della Repubblica Islamica la politica estera è prerogativa della guida suprema, cioè non è Ahmadinejad a condurre la politica riguardo il nucleare. Su questa questione poi… Il programma nucleare è considerato come politica estera? Cioè il programma nucleare? La creazione del programma nucleare nazionale, immagino che loro lo chiamino comunque. Sì, della certo, Repubblica ma nelle trattative con la IEA, sicuramente, chiaramente c'è il governo del Presidente e quindi c'è il governo di Ahmadinejad, però secondo la Costituzione iraniana l'ultima parola, l'ultima voce in capitolo, la decisione definitiva in politica estera è della guida suprema. E per intenderci, il capo delle forze armate è la guida suprema, se mai l'Iran avesse una bomba atomica a premere il bottone non sarebbe Ahmadinejad ma la guida suprema, questo tanto per dirlo insomma in soldoni. E questo ci risolleva un po' l'animo. No, invece no, secondo me dovrebbe essere il contrario, cioè nel senso che innanzitutto io faccio una distinzione, questo secondo me è un grave errore che facciamo tutti sull'Iran, non pensiamo all'Iran come un attore irrazionale in politica. Se noi rivediamo la storia iraniana, non c'è uno di quei conflitti di cui abbiamo parlato finora che sia stato causato dall'Iran. Meno che mai Ahmadinejad, che appunto ogni volta che parla viene sempre ripresa la frase, la parola, spesso tradotta anche male dal persiano, devo dire, in modo secondo me non innocente. Ma non per fare questo una geografia del personaggio, ma semplicemente perché riguardo la questione della politica estera, se c'è qualcuno all'interno dell'establishment iraniano adesso come qualche anno fa, era più incline alla trattativa, era Ahmadinejad. Ahmadinejad 2 anni fa, quando ci fu a Vienna l'incontro su una bozza di accordo che prevedeva, no, l'arricchimento dell'uranio all'estero, non so se ricordate, era una cosa anche abbastanza complessa, ma si era arrivati, pareva veramente che fosse oramai cosa fatta. Lui fu il primo a fare una dichiarazione entusiasta, evviva, abbiamo risolto, avete visto, non c'è nessun problema. Fu invece Khamenei a frenare, a dare una frenata molto forte su questo tema, perché non voleva assolutamente che il paese risultasse indebolito, cioè ci fosse un'immagine di debolezza dell'Iran che rinunciava sotto le pressioni della comunità internazionale. Dirò di più, allora quando è avvenuto questo episodio, Mousavi, che è stato il candidato della cosiddetta Onda Verde, no, le elezioni del 2009, quindi diciamo un riformista, chiamiamolo così, anche se non è esatta la dizione, fu tra i più critici su quella bozza di accordo, perché diceva: in questo modo avete buttato tutto il lavoro che si è fatto in questi anni di ricerca sul nucleare. Cioè, io sinceramente, non solo tra i politici iraniani, ma tra tutti gli iraniani che conosco, alcuni di questi sono anche, come dire, anti-regime, vivono all'estero, alcuni sono rifugiati politici, non ce n'è uno che ha sentito dire no, ma hanno ragione, non, noi dobbiamo fermare la corsa alla ricerca nucleare. Questo è qualcosa che ci sfugge a noi, perché probabilmente non conosciamo il sentimento nazionale, anche molto nazionalista, degli iraniani. L'Iran è abituato a vedere se stesso come potenza, come impero. L'idea che l'Iran non abbia il nucleare, ma che il Pakistan ce l'abbia, è un controsenso per loro, è un'assurdità della storia. Non solo, tutta la questione energetica è una questione molto vecchia, anche che risale oramai a una quarantina di anni fa, cioè di sfruttare le risorse interne petrolifere e il gas per l'esportazione e invece sostenere una ricerca nucleare che sostenga il fabbisogno interno energetico. Quindi in realtà la situazione su questa questione qua, sul nucleare, è molto meno variegata di quello che potremmo immaginare. Non c'è un'opposizione interna al nucleare, scordiamocelo, né da un punto di vista politico né da un punto di vista ambientalista, se possiamo dire. Non ci sono dei verdi che dicono no, non bisogna farlo perché il nucleare è pericoloso. All'iraniano medio importa soprattutto mantenere un tenore di vita che dal punto di vista del consumo di energia è sempre stato altissimo. Pensiamo che loro fino a qualche anno fa pagavano la benzina 9 euro di centesimo al litro, cioè fantascienza per noi. E tutto quello che potrebbe funzionare per ridare per garantire all'infinito un tipo di consumo di questo tipo è ben accolto. Poi dal punto di vista politico interno la situazione è decisamente critica, anche perché appunto a marzo ci saranno le elezioni parlamentari, che saranno anche così, un primo banco di prova dopo il contestatissimo voto del 2009, e poi si aprirà di fatto l'anno bianco, se possiamo chiamarlo così, nel senso che Ahmadinejad non potrà ricandidarsi alle prossime elezioni, quelle del 2013, e quindi ci sarà una ricerca anche di capire quali potranno essere i prossimi candidati, quali potranno essere le regole, quali potranno essere, si parla già di cambiare la Costituzione, di non andare verso una repubblica presidenziale ma tornare a una forma di premierato. Insomma, la situazione è molto complessa ed è sicuramente resa difficile anche da questa situazione internazionale, perché le sanzioni sicuramente hanno già provocato parecchi problemi agli iraniani, e di sicuro queste nuove sanzioni ne porteranno maggiori. Antonello, io da studio ho un'ultima domanda, una battuta sulla Siria. Sappiamo tutti quello che sta succedendo, paese in forte crisi, alleato di Teheran. Quali sono secondo te le implicazioni della crisi siriana sul regime, per il regime sciita? La Siria è sicuramente l'unico alleato formale dell'Iran, quindi se è anche curioso vedere come nelle cronache appunto delle agenzie ufficiali iraniane tutte le altre primavere arabe siano state sostenute, accolte, ben viste, no? con anche a volte cercando di mettere il cappello su qualcosa che invece non era possibile metterlo. Invece quando si parla di Siria sono sempre complotti appunto internazionali, agenti infiltrati, eccetera eccetera. Sicuramente per l'Iran sarebbe una perdita forte, una perdita dura, qualora appunto venisse rovesciato quel regime. Da questo però passare che un eventuale rovesciamento della Siria, che io comunque vedo molto difficile perché su quello si è creato già, come dire, uno schieramento internazionale molto diverso rispetto a quello che è avvenuto per la Libia, però anche qualora lì ci fosse appunto un cambiamento di regime, io non credo che l'Iran verrebbe sconvolto più di tanto. Io faccio sempre presente questo: l'Iran come Repubblica Islamica nasce nel 79, e quando c'è il 79 c'è ancora la Guerra Fredda, c'è l'Unione Sovietica, c'è un mondo che col passare degli anni, così rapido evolvere di una quindicina d'anni, non è esistito più, e passati altri 10 anni è ricambiato ancora. L'unico attore che tra mille contraddizioni rimane ancora quel soggetto politico che conosciamo è proprio la Repubblica Islamica. Quindi se non è valso tutto il resto del cambiamento, non credo proprio che potrebbe essere, insomma, una crisi irreversibile in Siria a cambiare poi i contorni della politica interna iraniana. Antonello, la mia ultima domanda riguarda una cosa che tu hai citato in precedenza, le primavere arabe. Come tu facevi notare prima, l'Iran non è arabo, è Persia, dunque sì, loro non sono stati, diciamo così, coinvolti per il momento in queste primavere arabe, ma il vento di queste primavere arabe potrà incidere in parte sul regime sciita, soprattutto visto che lo citavi tu prima, l'anno prossimo in primavera ci saranno le elezioni parlamentari. Ma io ribalterei la cosa, cioè nel senso che molti attivisti politici egiziani e tunisini ed altri hanno dichiarato proprio all'inizio che loro in realtà sono stati loro ad ispirarsi al movimento dell'Onda Verde iraniana del 2009. Cioè nel senso che fu proprio quella dimostrazione, una dimostrazione anche di attivismo e anche di, come dire, di uso intelligente dei nuovi media, dei social network, eccetera, eccetera, a dare un'indicazione molto forte di come si può organizzare così un movimento politico dal basso, senza leader e senza forti connotazioni ideologiche. Detto questo, va sempre riportato il fatto che si tratta di sistemi politici molto diversi. Cioè, paradossalmente, un sistema anche autocratico come quello dell'Egitto, come è stato finora e direi ancora adesso, è probabilmente anche più fragile di quello iraniano. Mi spiego, in Egitto le elezioni sono sempre svolte in tutti questi anni, sono sempre state elezioni farsa, cioè elezioni che si concludevano quando Mubarak veniva rieletto con il 95% dei voti, così come veniva per Ben Ali in Tunisia, eccetera, eccetera. In Iran questo non vuol dire che ci sia una competizione elettorale libera, nel senso che lì vale molto, come dicono loro, Khodi e Khere Khodi, cioè interni o non interni. Questa è una cosa che un po' prevaleva in Cina in certi anni, cioè sì, c'è la libertà ma è come l'uccellino in gabbia, l'uccello può volare ma appunto all'interno della gabbietta, all'infuori no. All'interno di quel sistema, cioè della Repubblica Islamica, la competizione c'è, questo significa pure che in certi momenti questa parvenza, diciamo, di competizione dà anche la possibilità di sfogare e di dare, come dire, di investire su alcuni personaggi. È stato così negli 8 anni di Khatami, quando c'è stato il movimento riformista, c'è stato un momento di grande apertura che comunque ha portato poi delle trasformazioni effettive, oggettive nella vita quotidiana degli iraniani. Ed è stato così con Mousavi e Karroubi nel 2009, quando comunque l'Onda Verde è un movimento che nasce dal basso, cioè perché questo nasce appunto come movimento elettorale, di opinione, di gente che andava a votare. Sinceramente, ora che tutto questo possa avere un effetto di ritorno, lo vedo un po' difficile, Dunque, scusami Antonello, non vedi la possibilità che il regime, diciamo così, crolli o abbia dei cambiamenti radicali in seguito a movimenti di piazza? Movimenti di piazza ci sono già stati e non ci sono stati questi cambiamenti radicali. Io non credo che ci possa essere un crollo, un'implosione. Non lo credo perché comunque quel tipo di regime, di sistema, dà delle garanzie a una parte di popolazione. Se non c'è consenso, c'è perlomeno convenienza. Ed è una convenienza di carattere economico, salariale, di sussidi, di tante cose, ma alla fine molto molto pratiche. Noi non dobbiamo pensare che l'Iran sia soltanto l'Iran degli studenti di Teheran Nord, è un paese molto grande, molto complesso, che è anche in realtà molto povere, molto rurali, anche molto arretrate, che però sicuramente in questa forma di regime hanno un minimo di garanzie che probabilmente in un altro sistema non avrebbero. Che questo rimanga sempre tutto così uguale, spero francamente che non sia così, che tutto possa cambiare nel rapido evolvere di una stagione non lo credo nemmeno, ma da tratti sono anche molto scettico per quello che riguarda l'esito politico delle primavere arabe. Anche lì andrebbero fatte distinzioni molto forti. Un conto è la Tunisia, un conto è l'Egitto. Non parliamo della Libia, di quello che è successo. Cioè, voglio dire, non sarei così ottimista poi sull'esito effettivo delle rivoluzioni, le cosiddette rivoluzioni arabe, come rivoluzioni che hanno poi portato a effettive democrazie. Antonello, siamo arrivati in conclusione al tempo che ti potevamo dedicare. Ti ringraziamo molto per il tuo interessante contributo. Annalisa, dallo studio, hai altre domande? No, altre domande. Mi unisco anch'io al ringraziamento. Grazie Antonello, un contributo davvero interessante. Speriamo di riaverti nuovamente nostro ospite in futuro. A presto e buon lavoro. Grazie a voi. Buona serata e buon lavoro ancora. Facciamo ora una pausa musicale. Buonasera cari radioascoltatori, dunque siete ritornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Passiamo ora al secondo tema di questa serata. Faremo ora il punto della situazione su quanto sta accadendo in Belgio, la crisi politica. Il 21 novembre scorso il leader socialista Elio Di Rupo, futuro premier in pectore, ha rassegnato le sue dimissioni al re Alberto II del Belgio, dopo l'impossibilità di trovare un accordo sul bilancio 2012. Di Rupo non è riuscito a superare lo stallo nei negoziati. Ricordiamo che il Belgio è senza governo da 528 giorni, se non sbaglio, ovvero dalle elezioni del 10 giugno 2009. Alessandra, con chi ne parliamo questa sera? Sì, ne parliamo con il nostro ospite che è già in collegamento con noi, si chiama David Coppi. David, ci sei? Sì, buonasera. Buonasera, grazie mille per aver accettato. Buonasera a tutti. Il nostro invito. David è giornalista al quotidiano Le Soir dal 2002 nella sezione politica interna. David è già stato nostro ospite in passato, sempre per discutere sulla crisi belga. David, incomincerei subito con una domanda riallacciandomi a quanto diceva Annalisa in apertura. Dunque, le negoziazioni sono saltate a causa dell'accordo sul bilancio che non è stato trovato. Parliamo del bilancio dell'anno prossimo, il bilancio 2012. Quali sono stati i maggiori ostacoli che hanno portato alla rottura delle negoziazioni? Le negoziazioni si sono interrotte dopo delle divergenze sul bilancio, infatti, ma non solamente sul bilancio, pure sulle le riforme economiche per i prossimi anni, ecco. Diciamo su il tema del programma di governo, il bilancio era certamente il pezzo grosso, ecco. Il bilancio, il pezzo grosso, la discussione portava principalmente l'amplitudine delle economie a realizzare, il problema che incontrano tutti i paesi di Europa in questo momento. E ecco, su questo punto e su altre cose, insomma, sulla ripartizione dei sforzi fiscali nella popolazione, fra i meno ricchi, i più ricchi, fra le classi medie, insomma, ecco, le classi sociali medie. Su tutto questo c'è stato uno scontro in definitivo fra da una parte il Partito Socialista, del sud del paese, il partito dunque di Elio Di Rupo, che in questo momento è formateur nello stesso momento, e il partito liberale, il partito liberale di Alexander De Croo, il partito liberale fiammingo, che si è mostrato questi ultimi giorni molto radicale sul suo programma, ecco, nel senso di rivendicare il suo proprio programma. Elio Di Rupo aveva proposto un nuovo compromesso globale e Alexander De Croo ha detto no. Oggi ci sono stati degli incontri discreti ma abbastanza prolungati specialmente fra Elio Di Rupo e Alexander De Croo. ancora novità non ce l'abbiamo con precisione, ma Elio Di Rupo deve andare o domani o sabato o domenica al massimo, deve tornare dal re, insomma, ecco, per dare per spiegare se sì o no le condizioni sono riunite per negoziare ancora o se tutto salta in aria. Davide, secondo te quali scenari si aprono ora per il paese? Quali sono le opzioni possibili? Ma lo scenario ce n'è uno solo, ecco, è che questo negoziato con sei partiti e con il formateur che è Elio Di Rupo, che è presidente del Partito Socialista, che ha vinto le elezioni il 10 di giugno 2010, più di 500 giorni fa, e che questo gruppo di 528 giorni fa, no? Insomma, penso ora di memoria non lo so più di precisamente. Ma ecco, lo scenario ce n'è uno solo, è che questo gruppo di sei con Elio Di Rupo vada fino in fondo, trova l'accordo, trova il compromesso e dà un governo al paese, ecco, che certamente, e poi lei lo sa e lo vediamo in Europa, il pericolo intorno a sugli stati, il pericolo dei mercati, dei speculatori che sono in agguato, ecco. Dunque lo scenario è uno solo, perché senza questi, se questo negoziato a sei salta in aria, che non c'è alternativa, ecco, non c'è alternativa, dopo più di 500 giorni non c'è alternativa, c'è solo la crisi politica prolungata pericolosamente, forse fino a delle elezioni molto avventurose. A questo punto, Davide, mi viene da chiedere, parlavi degli speculatori che sono in agguato. Abbiamo visto come i paesi di Italia, Grecia, Spagna, Portogallo hanno avuto problemi. Quali possono essere le implicazioni della crisi politica sulla crisi dell'euro, soprattutto in un periodo come questo in cui si vive una crisi del sistema euro e in cui i mercati sono profondamente aggressivi e possono veramente attaccare un paese? Abbiamo visto appunto con l'Italia, settimana scorsa si parlava dei primi attacchi verso la Francia. Non c'è un senso di responsabilità che diciamo così accomuna i politici belgi per raggiungere al più presto un compromesso e per dare dunque un'idea di stabilità? Sì, il senso di responsabilità penso che, ecco, c'è, ora dobbiamo ricordare che le elezioni, bisogna ricordare il fatto principale, che le elezioni del 10 giugno 2010 c'è stato un partito, che si chiama NVA, il partito di Bart De Weso, che aveva stravinto nelle Fiandre. Il negoziato si è svolto più di un anno con questo partito, la NVA, per provare a fare un accordo istituzionale, come si dice qua, no? Come si chiama in Belgio, un accordo fra le Fiandre, fra il sud del paese, per un nuovo assetto istituzionale. Questo accordo era impossibile con la NVA, che ha deciso di ritirarsi, ecco. Dunque, questi partiti che ora sono, che provano a trovare un compromesso sull'economia e sul pareggio di bilancio, lavorano da luglio scorso solamente. E voglio ricordare che l'11 ottobre hanno raggiunto un accordo molto importante sull'istituzionale, un accordo molto importante per il Belgio, no? Ricordate, hanno risolto anche il problema di BHV, che è un nodo in Belgio da lungo tempo, ecco. Dunque l'11 ottobre hanno iniziato i negoziati sul programma economico e sul pareggio di bilancio. Dunque sono sei settimane, ecco, non è che è lunghissimo. Certo che se si guarda la lontananza con le elezioni, allora sì, siamo a più di 500 giorni. Dunque Dunque, ecco, senso di responsabilità certamente, una pressione terribile su questi partiti, su Elio Di Rupo, perché si sa, come avete detto, i mercati sono, e i speculatori sono molto aggressivi, e se un giorno o l'altro, domani o dopodomani, decidono, si girano verso il Belgio e la situazione può diventare prestamente catastrofica, ecco, questo lo sanno tutti, dunque penso che verosimilmente il Belgio sarà dotato di un governo vero fra una decina di giorni, ecco, proviamo a essere un po' ottimisti. David, io da studio ho un'ultima domanda, ti vorrei chiedere insomma le tue impressioni, la tua opinione su diciamo su quello che pensa la gente, i belgi, sia in Vallonia che nelle Fiandre, appunto un paese dove i cittadini è più di 500 giorni che non hanno un governo, quali sono gli umori? Beh, gli umori sono cattivi, penso che la gente ora si è stufata, ecco, dopo più di 500 giorni certamente la gente finisce, ora non vede che ci sono c'è un confronto politico certamente fra socialisti e liberali, ma ora penso che la gente vuole un governo al più presto, e vabbè che poi c'è il peso e le conseguenze della crisi sociale, economiche, che cominciano a farsi risentire nel paese, penso, che è in uno stato molto delicato, ecco. Dunque penso che questi sei partiti, dunque il Partito Socialista, il CDH e l'OMR per la parte del sud del paese e per la parte fiamminga, il CD&V, il VLD e l'SPA, questi sei partiti penso che sono obbligati di raggiungere un compromesso e di fare un governo al più presto. David, siamo purtroppo in chiusura, noi ti ringraziamo ancora una volta per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera e speriamo una prossima volta di commentare presto la formazione di un nuovo governo. E grazie dallo studio di Bruxelles e buon lavoro. Grazie. Appuntamento ai nostri radioascoltatori alla prossima puntata di Giro di Boa. A risentirci. Buona serata a tutti.